Ladies and gentlemen, and now Alessandro Milan and Oscar Giannino. Licenziato! Voi due siete superficiali, sciocchi, il simbolo di una vita sprecata. Basta! Basta! Basta! Prendi due elementi innocui se separati come nitrato e glicerina. Combinali insieme e avrai un esplosivo potentissimo. 24 mattino. Attenti a noi due. Buongiorno cari ascoltatori, buon giovedì 5 di dicembre, sono le 8.13 primi e 39 secondi, anche stamattina Oscar Giannino da solo vi ringrazia per l'ascolto, per attenti a noi due, ma ci siamo, vi dà anche una notizia, perché a parte domani, non chiedete a me, in cui Radio 24 fa programmazione festiva e quindi magari io ci fossi, non ci sentiamo domani, per quello che mi riguarda, Tentino 2, c'è dalle 8 alle 9 il grande Federico Taddia che ci spiegherà come spiegare il 2017 a suo figlio e quindi ai nostri figli, ma noi torniamo lunedì con la Tentino 2 e c'è Alessandro Milan, e quindi io sono felice, ma lo so di dirlo anche a nome di voi tutti, o comunque della straordinaria maggioranza di voi tutti, e quindi si tornerà dopo la Befana con Alessandro Milan. Non mi chiedete per quale logica io invece poi il giorno dopo la Befana, cioè sabato, invece sono in diretta dalle 10 alle 12 con i conti della Berba, non capisco molto la logica di queste scelte, però detto questo io ci sono anche sabato dalle 10 alle 12 con i compari dei conti della Berba. Allora, oggi santi e ricorrenze, sì, ma vi dico subito che il tema per intervenire oggi all'800240024, per mandare opinioni al 349-238-6666, secondo me tra i tanti che ci sono sui giornali, è quello ai quali ho dedicato i primi due ospiti che avremo tra pochi minuti nella prima parte della trasmissione, ed è il tema della RAI. Avremo con noi il segretario della Commissione Vigilanza Rai, Michele Anzaldi del PD, e avremo con noi, e io sono molto felice, Francesco Merlo, editorialista di Repubblica, che sapete aveva anticipato di qualche tempo le dimissioni di Verdelli, con cui collaborava al nuovo piano editoriale. Verdelli, direttore editoriale, faceva parte della sua squadra, appunto Francesco Merlo, avevano l'incarico di redigere il nuovo piano editoriale sulle news della Rai. Sapete che quel piano non è passato, non passa, Verdelli si è dimesso. Oggi ci sono sui quotidiani nazionali molti interessanti pezzi di approfondimento su questo, ma io vi chiedo di mettere in fila un po' di fatti recenti negli anni renziani sulla RAI e di chiamarci per darvi un'opinione, perché quali sono questi fatti? Ricordo, Renzi aveva promesso di cedere due reti e di lasciarne una con il suo canone per il servizio pubblico, ce l'aveva promesso formalmente la Leopolda, e aveva promesso una governance non libera rispetto a quella attuale da politica e partiti, una specie di incrocio tra le fondazioni che assumono a questo ruolo l'impresa editoriale in Germania e invece la scelta di un consiglio molto apolitico come quello dei governatori della BBC. Non abbiamo avuto né questo né quello, abbiamo avuto invece una legge con la quale il capo azienda è indicato dal governo, questa ha molti poteri, è stato scelto Campo dall'Orto. Abbiamo avuto il canone in bolletta, quindi aumento del totale delle risorse che vanno alla RAI, perché chiaro diminuisce l'evasione, canone che poi è sceso da 100 euro primo anno verso i 90, ma il totale delle risorse aumenta visto il meccanismo di riscossione. Abbiamo avuto ancora nel mille proroghe il favore alla RAI di considerarla esterna al perimetro della pubblica amministrazione, dove l'aveva messo Istat, perché come è noto la RAI lamenta che, considerando la PA come secondo me è a tutti gli effetti, gli si legano le mani sulle procedure di gara d'asta e sui compensi agli artisti, e quindi gli abbiamo fatto il favore col decreto mille proroghe di invece rimanerne fuori, gli abbiamo fatto il favore di prorogarne il La convenzione di servizio pubblico senza mai ridiscuterla né prorogarla per legge per l'ennesima volta, e quindi che cosa sia il servizio pubblico non lo ridiscutiamo neanche quando scade la convenzione. E a fronte di tutto questo, adesso il piano di riorganizzazione delle news è saltato. Vedremo nei particolari perché, ma ditemi se di fronte a tutto questo vi è venuto qualche dubbio in più sul tenere la RAI così com'è, come si dice con una certa retorica, la più grande azienda culturale del paese. Bah. Io penso che sia un'altra cosa. Io penso che il fallimento di Verdelli, di cui ho molta stima come professionista, è un direttore e un giornalista che è stato capace di reinterpretare l'informazione sia nella parte alta che nella parte popolare, con un certo talentaccio per come si interpreta la grande capacità del giornalismo con l'interpretazione profonda di che cosa vuole il mercato, perché non si è mai dimenticato che i giornali o l'informazione radiotelevisiva deve avere un mercato, deve pensare al prodotto, deve pensare che qualcuno si deve motivare a ritenerla utile di pagare dei soldi non dovuti per decreto come quelli della RAI. Ecco, per me è un grande talento, quindi io non ho dubbi su Verdelli, ma penso che la RAI sia un grande corpaccione con troppa politica dentro, e io credo che il suo fallimento riproponga questo interrogativo, ma sono molto curioso di sapere come la pensate voi da questo punto di vista. E quindi chiamateci su questo, poi ovviamente sono accolte le chiamate su tutti gli argomenti che ci sono oggi sui giornali e in questi giorni. Oggi, per capirci, per fare qualche altra segnalazione oltre alle tantissime che avete sentito da Giulia Crivelli che mi ha preceduto, è ovvio che i quotidiani, molti dei quotidiani aprano con ancora su i dettagli relativi al nuovo progetto di Minniti sui centri di identificazione e espulsione, al nuovo progetto di Minniti che cambia molto rispetto ad Alfano, vuole aprire un centro di identificazione e espulsione in ogni regione, coinvolgere i comuni, ci sono i dettagli su tutti i giornali, il titolo di apertura della Repubblica è in ogni CIE 100 migranti, il Corriere della Sera apre con un titolo così sono fallite le espulsioni, ma il Corriere della Sera richiama tutti i documenti ufficiali accumulati in Parlamento e accumulati dalla stessa sinistra che esprime il governo Gentiloni e che sostiene Minniti al governo, ed è stata la sinistra che per anni ha alimentato i documenti, le interpretazioni, le risoluzioni richiamate oggi da Giovanni Bianconi e Fiorenza Sarzanini sul Corriere della Sera, che dicono come l'opinione del PD fosse che i centri di identificazione e espulsioni creavano i clandestini, erano da superare, da abolire, ci voleva l'accoglienza diffusa, i CIE nati sempre a sinistra con la legge Napolitano, ricordate, eppure superati dalla sinistra, oggi ripresi dal PD. È un'alternanza che abbiamo già notato ieri, ma questo è un tema che resta molto forte sui quotidiani con tutti gli approfondimenti del caso. Io vorrei segnalarvi però delle cose che mi hanno colpito, a prescindere da questa vicenda degli immigrati, dalle code che sono molto corpose su ogni giornale ancora relative ai 5 Stelle, sia per il nuovo codice come comportarsi con gli avvisi di garanzia, sia per le polemiche sull'informazione, le giurie popolari, eccetera, eccetera. Mi hanno colpito alcune cose che però secondo me dicono molto dei problemi italiani. La prima l'ha trovata su Corriere della Sera ed è un approfondimento, è richiamato in prima pagina e poi c'è a pagina 23 un approfondimento di un'intera pagina dedicato a questo, firmato da Gianna Fregonara, e sono le classiche cose che ai miei occhi, non so i vostri, confermano come le chiacchiere sulla riforma dello spirito, della sostanza della pubblica amministrazione del paese, ispirata al merito, all'efficienza, eccetera, eccetera, sì, chiacchiere per anni, poi quando si va a tentare di concretizzarla in fatti concreti si sbatte sempre la testa contro il muro. Ecco, a cosa mi riferisco? Mi riferisco ai risultati della prima adozione, e che io criticai perché l'ha fatta troppo timidamente, del premio di merito ai docenti nelle scuole. Il governo Renzi avendo capito che la materia era di quelle delicate, perché al sindacato non piace che non ci siano finti salari di merito spalmati tra tutti, ci sono eccezioni su questo nei sindacati, ma in generale questa è l'atmosfera che resta di fondo nella pubblica amministrazione, non nel privato, ma nella pubblica amministrazione, sì, perché si è reduce da tanti anni in cui si è fatto così. Allora, il governo aveva stanziato 200 milioni, ma con, diciamo, una certa mancanza di coraggio aveva detto, bene, ok, non sarà più solo il preside a valutare, come all'inizio si era tentato di dire, ci sarà un comitato di valutazione nei diversi istituti italiani, che sarà chiamato all'inizio a vagliare, di cui la sperimentazione, entro una certa forbice di indicazioni da parte del governo, di criteri generali a come graduarli, e quindi si deciderà in ogni scuola, secondo quello che deciderà questo comitato di valutazione, come attribuire a una parte dei docenti la quota relativa dei 200 milioni che spettavano a ogni istituto. Ecco, quali sono i risultati di questa sperimentazione? Lasciate che ve lo dica. Deludenti, tant'è che il Corriere della Sera giustamente dice il merito non entra a scuola. Sui 624.000 docenti, insegnanti di ruolo, i premiati sono 247.000, ma si vede, andando a scartabellare istituto per istituto, che i criteri nelle diverse regioni e nei diversi istituti sono i più vari, perché si va da quasi un premiato su due nel Lazio a uno su tre in Lombardia. È ovvio che più è numerosa la percentuale, più è finto il premio al merito, scusate se sono brutale, perché non individua un merito vero ma spalma, per così dire. Poi moltissimi presidi hanno deciso di non divulgare i nomi dei premiati per evitare proteste, il che significa un calcio in faccia al merito, perché la logica in un paese che riconosce il merito dovrebbe essere il contrario. Bisognerebbe rendere noti coloro che sono premiati per riflettere sul perché sono premiati, sulle loro migliori pratiche. Qui invece li si deve tutelare, perché altrimenti li si prende a sputi a calci. Capite che? E questa è la scuola che deve valutare i nostri e i vostri figli. E l'articolo di Gianna Fregonara, dopo aver illustrato molte di queste contraddizioni e aver fatto notare che un bel po' di scuole sul totale delle 8.000 comunque non si sono adeguate, è una riflessione secondo me molto amara, e riporta la convinzione dei sindacati secondo la quale questa sperimentazione morirà qui, perché non ci deve essere il premio di merito differenziato adottato con questi criteri. Allora, in morte della buona scuola, perché dopo il primo atto del ministro Valeria Fedeli, cioè consentire ai docenti di riscegliersi l'assegnazione vicino a casa, venendo meno ai 3 anni di assegnazione che almeno dovevano rispettare secondo quella che era l'impostazione iniziale della buona scuola, e quindi col risultato che dal prossimo anno riesploderà la supplentite che non era affatto tramontata nella scuola italiana, facciamo tramontare anche il primo esperimento del salario di merito nella scuola, nella formazione del capitale umano. Caro sindacato del settore, non ci siamo proprio. Ecco, questa è la mia considerazione di fondo. E io ho sentito Giulia Crivello, ho sentito su un'altra vicenda, che la segnalazione che ha fatto della vicenda israeliana l'ha fatta alla fine, in chiusura, ma capisco, perché Giulia si sforza di darvi una forbice molto ampia dei temi presenti sui giornali italiani. Invece riflettete, cari ascoltatori, questa vicenda israeliana è una vicenda che spiega perché tanti, o alcuni o pochi come me, amano Israele. È una questione di amore, perché la libertà della scelta politica di quel paese e la saldezza delle sue istituzioni democratiche. Pensate a tutti i paesi che ci sono nel Medio Oriente e ditemi se è un valore da trascurare. La mia opinione è no, e lo dico in base a dei fatti come quello che trovate, sia pure con non troppo spazio, ma è giusto così, sui quotidiani italiani oggi. Mi riferisco alla grandezza di un paese le cui istituzioni, magari sia un paese in guerra, sapete, da tanti anni e così via, abbia i suoi torti nella politica estera, sui territori occupati. Non è, io dico, amo Israele, quindi ne benedico tutti i governi e tutte le politiche. Però, ciò malgrado, è un paese nel quale i tribunali sono capaci di mettere una condanna severa per omicidio nei confronti di un militare israeliano giovanissime Elio Razzarea, che a fronte di un palestinese già immobilizzato e a terra lo ha ucciso. E di fronte alla destra del paese, molti ambienti militari, tutto sommato lo stesso presidente del Consiglio, il capo del governo, il premier Netanyahu del governo israeliano, che infatti subito si è mosso, dice no, ma io chiedo la grazia per lui. Eppure un giudice e un tribunale lo ha condannato. Allora, questo non avverrebbe con assoluta certezza in nessuno dei paesi in quell'area. Purtroppo, perché se la vicenda fosse all'opposto e fosse un israeliano la vittima, fioccherebbero le medaglie a chi l'ha ucciso per terra. E io difendo e amo Israele anche per questo. Allora, tanti altri temi sull'inflazione, chi è a Roma legga che cosa scrive l'editoriale del Messaggero di oggi, un certo signore che mi è omonimo, ma detto tutto questo andiamo al tema della RAI, perché sono con noi i due ospiti che vi avevo annunciato, e cioè appunto Michele Ansaldi, segretario di Commissione Vigilanza RAI, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. E Francesco Merlo, editorialista di Repubblica, che ringrazio davvero per aver accettato di rispondere a qualche domanda sulla sua esperienza lì, ma su cosa ha capito, sui termini generali della vicenda, perché non chiedo certo a Francesco Merlo delle imbarazzanti questioni personali. Ecco, mi interessa quello che ha capito accettando quell'incarico e poi annunciandone tempo fa e prima di Verdelli, di cui ho già detto io ho una certa stima personale, che dal suo punto di vista non era il caso, non c'erano le condizioni per continuare ad andare avanti. Grazie Francesco Merlo, buona mattinata. Grazie, grazie a voi, buona mattinata. Francesco, voglio prima sentire da Michele Ansaldi che ieri quando Verdelli, anzi l'altro ieri quando Verdelli ha detto no vabbè io mollo, la palla passa a Campo dall'Orto, sarà lui a decidere come, a verificare le condizioni per questo piano di ristrutturazione editoriale. È evidente che i pilastri su cui volevo andare avanti, cioè, ne ricordo alcuni cari ascoltatori, una specie di accorpamento del TGR, che è la più grande testata europea con quasi 800 giornalisti, con Rai News, spostare il TG2 a Milano, accorpamento dell'informazione regionale su, per macro regioni, e quindi ne sarebbe derivato, per così dire, un coordinamento dell'informazione locale incardinata su Milano oltre al TG2, e una specie di TG per il Sud a Napoli. Tutte cose che, insomma, nell'organizzazione interna della RAI sono state viste come non contrattate. Lo stesso Freccero dice: non hanno mai avuto l'umiltà di venire da noi. Oggi su Repubblica mi è piaciuto molto, nella pagina degli editoriali, una maniera di Michele Serra, nella maca che si trova a pagina 22, di dire, ma insomma Freccero, se questo è l'argomento, cosa vuol dire? Vedetevela tra voi, ecco, auguri però se decidete che solo per chi sta dentro è possibile decidere come si cambia la RAI. Michele Ansaldi aveva commentato, dovremmo quasi chiedere scusa agli italiani perché era meglio andare avanti con il piano dei gubitosi. È sempre di questa idea Ansaldi? E adesso cosa succede secondo lei? Io sono di questa idea per due motivi. Fondamentalmente il primo, perché quello di Gubitosi la vigilanza ha avuto modo di studiarlo per un anno, quindi lo ha conosciuto, lo ha sviscerato, e di approvarlo all'unanimità. E poi perché il dato fondante del piano di Gubitosi, appunto approvato sia in CDA RAI che dalla vigilanza all'unanimità, aveva un numero ben preciso, c'era un risparmio in un anno di circa 70 milioni che andava ad aumentare, quindi si doveva partire da questo, cioè un piano che a detta di tutti aveva una grande efficienza, garantiva grande efficienza, pluralismo, e funzionava, e garantiva 70-100 milioni di risparmio in un anno, che a detta della Maggioni in vigilanza, che venne a esporcelo come direttrice di Rai News, era una tappa fondamentale, altrimenti la RAI chiudeva, ci ha detto. E anzi, bisognava passare in pochissimo tempo a una newsroom, da due newsroom, cioè due macro direzioni, per capirci, adesso sono sette se non sbaglio. Quindi si partiva da questo, e il problema secondo me di questo piano cosiddetto in questo caso poi stranamente si chiama Verdelli e non Campo dall'Orto, mentre quello si chiama Gubitosi e non Rizzo Nervo. Ci sono delle cose strane in tutta questa storia. E questo piano... A voler pensare male, Ansaldi, si direbbe, io sono ormai abbastanza vecchio come osservatore, dichiaro che penso male, a voler pensare male si direbbe che con Gubitosi si individuava direttamente la responsabilità del successo e del fallimento nel capo azienda. Scegliendo invece un livello diverso, ma di grandissima competenza, ma esterno, ci si precostituiva un cuscinetto di sopravvivenza. Mi scusi se sono cattivo. Sì, però mi scusi, però il nome al piano glielo danno i nostri colleghi giornalisti. Non è che c'è un'etichetta che gli dà l'azienda o la politica, eh. Questo è che dice lei, è vero. E dopodiché, capisce, si parte purtroppo da un dato secco. Quindi noi, cioè gli italiani col Parlamento all'unanimità, sanno che quello che funzionava, che imitava molto e mirava a raggiungere la BBC eccetera, portava 70-100 milioni di risparmio e funzionava meglio, era più veloce eccetera eccetera. Adesso qualunque altro piano avrà sempre questi numeri davanti per capirci. Quindi era un'impresa ciclopica, secondo me errata dall'inizio, eccetera eccetera, fatta forse per arroganza, non lo so, però il risultato è questo. E se mi chiede a me, proseguiamo, perché se un piano fatto da un professionista come Verdelli eccetera eccetera, tutte le cose obiettive che ha detto lei, viene, va sugli scogli, si arena e si dice che in 10 giorni si ripropone, è arroganza, è fantascienza, perché appunto si viene da una cosa approvata all'unanimità che garantiva 70 milioni di risparmio, una fase dove addirittura si è dimesso, perché si è dimesso, non certo, ce lo dimentichiamo, certo. Non è che è stato bocciato, certo. Verdelli non è stato bocciato, Verdelli quando ha visto che si faceva melina, che si giocava col suo nome appunto, ha detto sapete che c'è, io me ne vado, giocate voi. Quindi non è stato bocciato il piano, è andato Verdelli. Allora la situazione è su un binario talmente drammatico che Verdelli, che lo ha scritto, lo ha pensato, se n'è andato. E questa situazione noi la correggiamo in una settimana, in 10 giorni, è una nostra prova di arroganza, con un numero eclatante, 70 milioni. E questo è, io... Le riflessioni che io faccio sono queste. No, per carità, e io le condivido, Ansaldi, per questo l'ho chiamata, perché vedo che altrove c'è una certa enfasi nel ripetere la più grande azienda culturale del paese. Sì, sarà. Non metto in discussione la grandezza. Diciamolo. Perché noi dibattiti politici, che sono la vita per noi, guardi il referendum, queste cose, siamo stati costretti a farle su... funzionanti TV commerciali, ecco, che svolgono in quel caso. Noi siamo venuti da lei, da Minoli, no, ma perché sono felice che lo dica, perché svolgono in quel caso, secondo me, un servizio pubblico senza canone. Ma lo dico non perché voglio polemizzare. Io voglio richiamare, a proposito dell'azienda però culturale, l'azienda, i numeri di Mediobanca, cari ascoltatori, perché mi piace il modo in cui Ansaldi Non si ferma all'ipocrisia di difendere le parti politiche, ma va dunque. Tanto per essere chiari, cosa significa la RAI rispetto alle altre aziende sul versante azienda di settore? Significa che nell'ultima lettura comparata che ci ha fatto RS di Mediobanca delle aziende di settore, il costo del personale RAI è quasi il 39% dei ricavi della televisione pubblica, sommando quelli da canone e quelli commerciali. Per essere chiari e andare ai concorrenti, quel quasi 39% costo del personale sul fatturato RAI va misurato rispetto al 14,8% di Mediaset e addirittura per Sky Italia il 7,1%. Guardate qual è il diverso livello del solo fattore peso del costo sul totale del fatturato. Se andiamo a vedere qual è, diciamo così, la produttività, utilizzando uno dei diversi, anche criticabili, indicatori di questo, cioè il valore aggiunto netto per dipendente, allora il valore aggiunto netto per dipendente in RAI è sceso a 69.000 euro lordi annui. In Sky Italia siamo a 105.000. In Mediaset siamo a 139.000. Allora, io potrei andare avanti molto a lungo con dati comparati che descrivono una non azienda sarà la più grande, ma è una non azienda. E allora, in questo, quando Ansaldi vi dice: guardate che sto piano sì deve rispondere a esigenze, ma deve avere, portare anche risultati che guardano a questi numeri comparati, io ringrazio Ansaldi, perché c'è un certo spirito concreto in quello che dice, secondo me molto urgente. Vedo invece che nei commenti di oggi si invocano grandi principi che con tutto questo poi non hanno niente a che fare, o quasi. Adesso abbiamo un minuto di traffico e poi sentiamo Francesco Merlo cosa ci dice di quello che ha pensato quando l'incarico gli è stato proposto, quando ha tentato di portarlo avanti e poi quando e come si è convinto a dire: beh, vabbè, meglio lasciar perdere e lasciar fare ad altri. Tra un minuto. 24 mattino, attenti a noi due. Eccoci qui, tornati in diretta. Ovviamente non era traffico, come viene automatico da dire per la trasmissione del pomeriggio, ma era la pubblicità. Allora, abbiamo sentito Michele Ansaldi dire: ma insomma, adesso dire che dopo che Verdelli si dimette, che si fa tutto in pochi giorni. C'è un'intervista di Campo Dall'Orto oggi sul Corriere, che devo dire, ecco, sulla quale mi limito a dire che condivido un po' il giudizio che ha dato prima di me alla rassegna stampa che mi ha preceduto a questi microfoni. Cioè, è una pagina intera in cui si capisce l'imbarazzo di Campo Dall'Orto, che deve tentare di sostenere che nulla di fondamentale è avvenuto, mi dispiace per Verdelli, insomma, no, ma noi andremo avanti sulle stesse direttrici. Se leggete le interviste dei membri di questa amministrazione, l'impressione è totalmente opposta, cioè di un fallimento totale della gestione di cui si tengono i presupposti. Francesco Merlo, tu cosa pensasti quando ti chiesero di dare una mano per questo piano editoriale di strutturazione del News con Verdelli? Che impressione avesti quando ci hai messo mano e che cosa ti indusse invece a dire no grazie? Il punto fondamentale è che io sono andato, ho detto sì a Carlo Verdelli, che chiese di collaborare con lui perché la sfida era veramente molto alta, e la sfida è quella di modernizzare l'informazione della RAI e di liberarla dal dominio della politica. Questa è la sfida. Questa è la sfida che noi abbiamo raccolto, ed è su questo che abbiamo lavorato. Il nostro piano editoriale risponde a queste esigenze. Il piano precedente, che era stato fatto da Gubitosi, è un piano di efficienza economica, infatti taglia 800 persone almeno, poi c'è tutto l'indotto. Il nostro piano non taglia nessuno. Del resto Gubitosi è un ottimizzatore di gestione finanziaria, non è, appunto, non viene, certo, non è. Esatto, non doveva fare quello che facevate voi. Certo, il nostro scopo era quello di liberare la RAI dal dominio della politica, che non è una questione di dosaggi. Non è che cambiare i dosaggi, inserire più renziani o meno renziani, eccetera. Noi non abbiamo nessun rapporto con Renzi, non lo conosciamo nemmeno. Cioè, il nostro problema era questo. Quindi come si fa? Come si mette mano a questo? Si parte dalle regioni. Cioè, si parte lì dove nasce sul territorio la formazione del consenso politico. La legge Gasparri prevede 21 sedi regionali. Le 21 sedi regionali di questo TGR, che non è soltanto il TG con 800 giornalisti, è anche il secondo TG italiano come audience. Quindi il primo è il TG1, poi viene il TGR e poi vengono il TG5 e tutti gli altri che fanno concorrenza. Quindi stiamo parlando di una cosa molto importante. Ecco, in queste sedi regionali, che sono 21, sono diventate le nuove sezioni di partito. Cioè, in queste sedi regionali si forma il consenso. Chi vince le elezioni, il notabile locale, diventa il padrone di queste sedi regionali della RAI. E spesso i giornalisti vengono umiliati al punto che non escono quando succedono i fatti, ma solo quando devono fare marchette. Quando succedono i fatti escono gli operatori e tornano, e i giornalisti mettono le voci. Succede spesso, non sempre, però e questa è la, mentre invece succede sempre che esce il giornalista quando c'è di presentare l'olio pugliese piuttosto che l'uva sultanina di non so quale azienda, che quindi si vede sempre poi il deputato locale che saluta, tutta questa roba qui è orribile, perché è lì che si forma il giornalismo asservito che noi conosciamo, che è quello purtroppo che prevale nell'informazione pubblica. Quindi partiamo da lì, riformiamo questo, restituiamo il giornalista al territorio. Restituire il giornalista al territorio significa farne un giornalista che sta fuori, che ha il suo zainetto, che viene modernizzato e che quindi attraverso questo restituisce un rapporto col territorio, restituisce la notizia al suo proprietario, che è lo spettatore. Anche perché, lasciami dire, Francesco Merlo, che a volte quando ci sono le emergenze, cioè per esempio i terremoti, tragicamente sono le emergenze, malgrado tutti i numeri che hai ricordato, la radicale, capillare presenza, le 21 sedi regionali, la RAI è dovuta, facendo anche qualche pessima figura, ricorrere alle immagini degli inviati di Sky con le zainette arrivati molto prima e magari... Però devo dire la verità, quello che è successo quest'estate dal punto di vista dell'informazione della RAI è un successo, cioè RAI non aveva mai fatto tanto, e anche questo è dovuto alla struttura messa insieme al lavoro che ha fatto Carlo Verdelli, cioè, perché oltre a preparare il piano editoriale quella struttura si occupava anche di questo, certo. E mai c'erano state tante dirette e tanta qualità dell'informazione. E infatti questo lo hanno riconosciuto anche i membri del Consiglio di Amministrazione. Ma la reazione però, a quello... Lo hanno riconosciuto adesso, scusami, perché per mesi, per quei pochi mesi che abbiamo lavorato, e poi si diceva ma che cosa fanno Verdelli, cosa fa Verdelli, c'era tutto uno stalking corporativo messo in piedi, alimentato da alcuni consiglieri d'amministrazione, che tu di consigli d'amministrazione te li intendi, ma i consigli d'amministrazione che fanno? Si occupano dei piani editoriali nel merito? Ma dove? Quando? Il consiglio d'amministrazione di Repubblica fa dichiarazioni dicendo non mi piace il piano editoriale che sta preparando il direttore di Repubblica o del Corriere della Sera, ma che significa? Lo sai che la RAI è un'altra cosa, ma quello che mi interessa è capire... È un'altra cosa, però sono poteri che non hanno. Ah, certo. Però mi interessa capire una cosa. Loro rivendicano di volere rivisitare il piano di Carlo Verdelli, ma con quali competenze e perché? Io la leggo così, dimmi se sbaglio al tuo giudizio, poiché i partiti sono stati obiettivamente spodestati e ridotti dalla legge di riforma voluta da Renzi, che mette un capo azienda emanazione del governo, allora i consigli di amministrazione, espressione ancora dei partiti, tendono a dire adesso te la facciamo vedere noi, cara azienda a guida governativa, che non c'entra niente né con il merito delle filosofie di fondo di come rifare l'informazione pubblica, né tantomeno sulle decisioni organizzative, eccetera, eccetera. Ma questo può essere un mio criterio da vecchio osservatore incanutito. Quello che mi interessava capire è che quanto ha pesato di più la resistenza interna, tu hai prima usato l'aggettivo corporativo, che io condivido, o questo invece è fattore politico dall'alto dei consigli di amministrazione, espressione dei partiti? I consigli di amministrazione sono espressioni dei partiti, almeno l'attuale consiglio di amministrazione, ma non lo è in una maniera diretta, nel senso che poi ci sono dei sottoscala della RAI, che sono politica anche quella, e a parte le pantomime della vigilanza, no? Vedere le pantomime della vigilanza che non finiscono mai, dove tutti diventano direttori di giornali e tutti pensano di sapere come si fa quello che non hanno mai saputo fare, quando l'hanno fatto, perché poi questa è la verità. Allora, a parte questo, cioè le pressioni politiche sono comunque mediate dagli interessi della RAI, che sono interessi di bassissimo livello. Cioè loro vogliono un vice caporedattore, si battono perché non si tocchi in una determinata regione, in una determinata città, qualcuno che è fratello di quell'altro, che è cugino di quello. Cioè questa è la roba che prevale nei partiti RAI. E poi ci sono degli orrori della RAI. Guardate la notte certi telegiornali. Cioè, sono degli orrori estetici, etici e informativi. Ecco, questa cosa qui è una cosa che appena la tocchi appena parli di un minuto, immediatamente insorge e lusigrai, e poi c'è in vigilanza, qualcuno chiede di sentire perché viene diminuita l'informazione. È il contrario, tu aumenti l'informazione intervenendo sulla qualità. Questa roba qui, queste sono cose che non si possono toccare, evidentemente. Poi il TG2 a Milano e il TG Sud che tu hai citato prima, tanto per precisare, no? Cioè, è un sogno veramente di tutti i meridionalisti avere un TG nazionale che racconta l'Italia con gli occhi del meridione, perché questo è un TG nazionale che racconta l'Italia con gli occhi del meridione, affidato, secondo il piano editoriale che Verdelli aveva firmato e che il TG ha bocciato, che l'intervista di oggi è la bocciatura di quel piano, e la vera bocciatura è lì, perché il Consiglio di amministrazione non è un interlocutore, chi può decidere di farne un altro e ha tutti i diritti per deciderlo è il capo azienda, è il direttore generale. Quindi il TG Sud era questo, affidato ogni anno, cambiando il direttore, a un grande giornalista meridionale, per lanciarlo, per fare capire che l'Italia, che il pluralismo in Italia si rispetta con il territorio, con la geografia. Cioè, non è più il problema. Infatti di io confermo cattoli. Che la cosa che ieri mi ha colpito, Francesca, è che per esempio il direttore del Mattino, di cui sono amico, mi ha chiamato, mi ha tenuto molto a lungo due volte durante il giorno, dicendo: ma io voglio difenderla in prima cosa, era un'idea strepitosa. Dico, e io gli spiegavo, Alessandro, è Alessandro, il sogno di tutti i meridionalisti. Esatto, gli dico sì, però tutti, guarda, io sono meridionale, lo so, e il sogno di tutti i meridionalisti è quello che l'Italia non viene raccontata con gli occhi del meridione, che sono occhi di Milano, occhi di Torino. Allora, aspetta un secondo, Francesco, perché io voglio capire se sentite le ragioni. E poi c'è il TG2 a Milano. Che non è, aspetta, che non è un capriccio. Il TG2 a Milano, ma qual è il PIL, che la parte del PIL che viene da Milano? Dillo tu. No, ma è materia che conosci bene. Ma non c'è dubbio, però è proprio, sono proprio questi criteri su cui ti stai diffondendo, e per questo io ero sicuro che se finivi qua si capiva meglio la faccenda. Sono molte delle cose di fronte alle quali poi le esigenze organizzative e politiche prevalgono. Tant'è che la mia curiosità, Michele Insaldi è rimasto con noi ad ascoltarci, io lo ringrazio. Però a questo punto io vado da lui a chiedergli: ha sentito, ma anche la passione con cui Francesco Merlo e Verdelli hanno tentato delle scelte che vengono oggi liquidate sui giornali come: ma di che? Ma non si sono confrontati? Ma questi l'azienda non ci stavano dentro, non lo capivano, ci vengono a raccontare che fanno, e vengono liquidati come se fossero tre o quattro pazzoidi che si sono montati la testa, non so come dire. Allora, che impressione le fa Ansaldi? Ma impressione è positiva, perché Merlo è bravo nello scrivere e nel parlare, però parliamo appunto di cose che io sto sentendo in radio, che non dico letto, ma neanche studiato. Quindi le impressioni, le devo dire, positive, però se mi chiede così, dalle cose che ho detto, i dubbi che mi vengono in mente sono, ad esempio, la prima differenza fra Sky, per capirci, e la Rai. Qual è? Secondo me la grande differenza è che la Rai, essendo gigantesca storicamente sul territorio, ha le sedi regionali. La seconda cosa, ad esempio, Merlo dice, è il secondo giornale per ascolti in Italia. E allora forse è una ricchezza, non conviene partire da quella. L'altra cosa, io dicevo che noi, e cosa che abbiamo fatto, era ridurre il canone, ridurre i costi, efficientare, quindi bisognava ridurre quei costi, bisognava farlo. E questo in una Rai, per dirle, noi eravamo partiti che volevamo chiudere Rai Parlamento, non solo è lì, i vice direttori sono diventati da 2 a 4. Sì, l'altra sì. Cosa, lui dice il CDA ha parlato, ha fatto, ma mi scusi, secondo me il vero problema è che il CDA non ha fatto niente. Se andiamo a fare la ricerca storica nelle agenzie e nei giornali, l'unico che ha espresso dei dubbi su tutte le vicende, su tutte, anche i successi estivi, perché non ricordiamoci il pasticcio, sì, pugliese, sono stato io. Io do atto al fatto che lei infatti interviene puntualmente. Io è per questo che mi devo dire, noi non ci conosciamo, cari ascoltatori, io non sono personalmente amico, però ho imparato negli anni come osservatore a vedere che Anzaldi è uno di quelli che interviene e non si tira indietro con ipocrisia, a differenza di tanti che nei partiti su questo prima aspettano di capire cosa pensa il leader. Ma detto questo, vede, posso dire una cosa che Merlo non può dire, giustamente, magari non la pensa, e che lei non può confermarmi. Ma se si sceglie come presidente un giornalista, ed è stato lei, Anzaldi, giustamente a ricordare che in realtà la Maggioni, Monica Maggioni, che conosco, che stimo, ma Monica Maggioni, quando era lei a pensare a piani di intervento editoriali, ne aveva di ambiziosi, era lei a ricordare, no? L'unificazione delle sale news. Si è schierata su quello dubitoso. Come no. Quando poi arriva un intervento ancora più ambizioso, senta, io non so nemmeno se sia vero, però siccome stimo molti colleghi che scrivono i pezzi sulla RAI e mi dicono e hanno documentato sui giornali, il presidente era alla testa della resistenza interna, allora ci vuole, come dice Merlo, ci vuole dei consigli di amministrazione più consigli di amministrazione, consigli di amministrazione ordinari, in cui un presidente non può essere contemporaneamente uno che entra nel merito di come si fa il mestiere del giornalista. E lo dico con grande stima, rispetto, anche amicizia a Monica Maggioni. Io però, nel ringraziarvi entrambi, sono felice che abbiamo tentato di spiegare con grande rispetto per chi lavora in RAI, perché io non mi impanco a maestro di nessuno, molto umilmente e col capo coperto di cenere, dico che sono contento perché con Michele Anzaldi, sì, un politico che se ne occupa, ma che insomma va al cuore delle questioni e che spesso nel suo stesso partito gli dicono e non rompere le scatole, per essere chiari, e io ringrazio davvero tantissimo Francesco Merlo per aver tentato di spiegarci qual era lo spirito di questo intervento. Io lo considero purtroppo la sintesi del fallimento di Dall'Orto e di Renzi alla RAI, e lo dico senza nessuna voglia di far polemica politica, perché ci avevo creduto in questa storia di che Matteo ci aveva raccontato Leopoldi anni fa, e misuro la distanza tra quel cacchio di parole impegnative e ancora la distanza tra il mandato dato a uno come Verdelli, a gente come Francesco e così via, è il niente che mi sembra che si stia portando a casa, e sono molto amaro nel dirlo senza nessuna soddisfazione, perché l'informazione non si può ridurre, come vuole Pitruzzella, il presidente dell'antitrust, a un'autorità pubblica che certifica la sua verità e falsità. Dio ce ne guardi, per favore, Pitruzzella, io stimo anche lei, ma non dica stupidaggini di cose su cui evidentemente non capisce niente. Non abbiamo bisogno dell'inquisizione di Stato. La cattiva informazione, le palle che girano, le bufale, esatto, la rete, quello che volete, si cura in un solo modo: con la buona informazione, con gente che l'ha dimostrato per anni in quello che ha fatto. Verdelli è uno di quelli, in RAI ce ne sono, certo che ce ne sono tantissimi, però il problema è che bisogna lasciare che dicano, ascoltino e decidano loro su come il mestiere di giornalista si fa. Se invece continueranno a farlo i partiti o il governo, saremo sempre qua a raccontare che deve essere una grande azienda culturale, quando invece è un'azienda che è insieme privata e pubblica, ma è pubblica quando fa comodo ed è privata quando fa comodo. Allora io dico, nel ringraziare i miei due ospiti, grazie per quello che ci avete detto. Sentiamo come la pensa Stefano da Trento. Stefano. Buongiorno Oscar, Stefano Elena, direttore del Nord-Est Quotidiano, una testata digitale che è diffusa nel Nord-Est collegio europeo. Non lo sapevo, e buon lavoro e grazie per quello che ha fatto. Una cosa, io ho visto la riforma proposta da Verdelli sotto l'aspetto diciamo locale, e la proposta di centrare tutto quello che era il Nord-Est, quindi il Triveneto in particolare, sì, su Milano, e lasciare fuori Bologna, che aveva la competenza su anche la Toscana, mi sembra anche poco rispettoso di quelle che sono le tendenze del territorio. Stefano, guarda che non si annullavano i dipendenti e le competenze eccetera, si riorganizzava la line delle direzioni, non è che si levava l'influenza territoriale. Attenzione però che un'informazione, quella di TGR, fatta come ce l'ha raccontata Francesco Merlo, io ho sempre, mi chiedo da anni quanto serva davvero a raccontare i territori. Questo non per difendere la riforma Verdelli. Comunque, cari ascoltatori, oggi è andata così. Domani allora vi consegno a Taddia e a come si racconta il 2017 nostri figli. Sabato ci sono con Carlo Alberto Cannavale Maffè e Mario Seminerio, Nato Cifarelli, dalle 10 alle 12 in diretta per i conti da Belva, perché parleremo delle vicende economiche di questo nuovo inizio anno. E poi lunedì ci sentiamo con Alessandro Milan, che riabbracciamo qui ad Attenti a Noi Due e a Radio 24 Mattina.